Effetto Mondo. We are going to unite together and defeat the most dangerous president in the modern history of this country. Buongiorno a Giulia Crivelli. Buongiorno. Chi è che stavamo ascoltando? Siamo arrivati alle famose seconde, le prime vere primarie dopo il caucus dell'Iowa, che è un sistema diverso e quindi non possiamo chiamarlo primaria, un sistema diverso di conteggio dei voti, di raccolta di conteggio dei voti. Queste sono le prime primarie, è andato tutto liscio, conteggio veloce. New Hampshire. E ha vinto Bernie Sanders, sapete ha quasi 80 anni, però a questo punto rappresenta l'ala più, noi diremmo progressista, loro dicono stalinista o addirittura socialista, del Partito Democratico, e ha fatto il suo discorso in questi pochi secondi. Ha detto: dobbiamo essere uniti per battere il più pericoloso presidente che gli Stati Uniti abbiano avuto, insomma, in era moderna, che poi bisognerebbe capire che cosa intende per era moderna. In ogni caso, insomma, l'opinione di Sanders su Donald Trump come pericolo pubblico, potremmo dire, è nota. Pete com'è andato? Pete è andato bene. Pete Buttigieg, naturalmente nessuno si aspettava che vincesse, anche perché qui e soprattutto in Vermont, che è lo stato natale di Bernie Sanders, lui è molto favorito. Però è andato comunque bene, perché ha stracciato Joe Biden e anche Elizabeth Warren, che sono i due candidati, diciamo, più anziani, ma anche dell'establishment del Partito Democratico. E poi è ricomparsa la mia mitica Amy Klobuchar. Però se vuoi, sentiamo qualcosa sì, ancora, sentiamo ancora pochi secondi di Sanders. The reason that we are going to win is that we are putting together. Posso dire che sembra un po' Trump come tono di voce? No, a me mi fa questo effetto. Però è interessante questa parte, sì. Perché dice: vinceremo perché saremo uniti e perché porteremo a votare costruiremo dei ponti intergenerazionali e tra gruppi diversi, tra minoranze, che sicuramente Trump non può costruire. Molti giornali americani, tra i quali il New York Times, ma anche tanti commenti online, ribadiscono che per il complesso sistema americano dobbiamo stare molto attenti al voto popolare, anche perché, pensate, negli Stati Uniti bisogna registrarsi per votare, non è come qui che o ricevi la tessera elettorale a casa o vai anche la mattina stessa a ritirarla all'ufficio elettorale, devi prima pre-registrarti. Il 99% degli elettori afroamericani non sono in questo momento registrati. E il 98% dei latinos, non dei latinoamericani, ma delle persone di origine latinoamericana che vivono negli Stati Uniti e hanno diritto al voto, non sono registrati. Se Bernie Sanders, Pete Buttigieg, per qualche ragione a me ignota, pare poco gradito soprattutto agli afroamericani, però se Bernie Sanders in particolare o Amy Klobuchar riuscissero a convincere questa fetta di elettorato a registrarsi e quindi a votare, scrive il New York Times, non solo l'establishment democratico risulterebbe completamente sconfitto, perché Joe Biden non riesce, nonostante sia stato il vicepresidente di il primo presidente nero degli Stati Uniti, ma potrebbe essere effettivamente la chiave di volta per l'elezione di novembre. Insomma, devo ammettere che, ascoltandoti, che sono queste storie, a me le trovo molto avvincenti, le storie politiche di tutti questi candidati. Stiamo parlando, è vero, per certi aspetti del nulla, no? Perché le primarie, la prima, la seconda, chissà quanto andremo avanti. Però c'è tutta la politica americana, la stratificazione sociale. A me interessa molto, spero anche agli ascoltatori. E tra l'altro il 3 marzo ci sarà il cosiddetto Big Tuesday, perché lì ci saranno tante primarie insieme e ci sarà qualche indicazione più chiara. Abbiamo detto ieri, dovrebbe scendere in campo anche Michael Bloomberg. Sentiamo invece Amy Klobuchar, che anche lei, dicevamo, io stessa stupidamente, era la mia preferita, ma adesso dovrò tifare Pete Buttigieg. Invece lei ha avuto un risultato molto buono, più alto di Elizabeth Warren. Sentiamola nel suo discorso molto gioioso, molto positivo. Tonight in New Hampshire, as everyone had counted us out even a week ago. Thank you, pundits. E dice, scherza, dice: una settimana fa avevate già detto che io mi sarei ritirata, e comunque grazie, perché questi uccelli del malaugurio mi hanno portato fortuna, e we came back, abbiamo recuperato. E quindi lei, tra l'altro, poi ha parlato della sua carriera di senatrice, di donna in uno stato, il Minnesota, molto conservatore, e quindi insomma ha dato un messaggio estremamente positivo, era veramente felice, quindi forse un po' sorpresa. faccio una domanda da ignorante, ma in New Hampshire i repubblicani non si sono sì, espressi? Ma sì, ma c'è stato un candidato che, guarda, non sono neanche riuscita a trovare il discorso, perché praticamente è così una formalità, perché poi in realtà certo, Donald Trump è talmente Trump forte, quasi è come se sì, appunto, una formalità politica alle primarie, ma insomma è lui il candidato, il candidato. Dove ci porti adesso, Giulia? Ma visto che avete parlato prima di Scozia, comunque nei giornali britannici oggi c'è ancora molto questa questione dei trasporti, perché abbiamo detto ieri grande piano per il trasporto locale su gomma, quindi gli autobus, e però Boris Johnson aveva già detto settimana scorsa al via la seconda tranche dell'alta velocità, lo ha ribadito ieri, e quindi sta puntando molto su questo, che forse ha anche effettivamente un significato di riunificazione del paese. Ricordavate la questione della Scozia, all'ascoltatore che dice c'è stato un referendum, si ricordi che quel referendum era stato fatto e comunque vinto di misura prima del famoso referendum sulla Brexit, quindi gli scozzesi non avevano votato per restare nel Regno Unito, ma per restare in un Regno Unito che apparteneva all'Unione, che a sua volta era legato certo all'Unione Europea. E poi no, se vuoi, dai giornali britannici, ieri abbiamo sentito i dati terribili sul nostro andamento demografico, e però l'invecchiamento, come avevi ricordato anche tu ieri, è un problema di tutti i paesi occidentali e anche del Regno Unito. Il Daily Mail dà la parola a questo, diciamo come se fosse il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità equivalente britannico, si chiama Chris Whitty, e dice la vera crisi è per la cura delle persone old age, che poi sono gli over 65, che se vogliamo, con un'aspettativa di vita che ormai è oltre gli 80 anni anche nel Regno Unito, 65 io non le definirei neanche anziani, però quella fascia di popolazione che ha comunque bisogno di più cure è una fonte di preoccupazione per un sistema sanitario nazionale che era tarato fino a pochi anni fa su altre fasce di popolazione. C'è una domanda di Fabio Lattorino, non abbiamo il tempo per leggerla, però chiede chiarimenti sulle primarie americane, dice che sono una farsa, che non servono a nulla. Poi la prossima volta le spiegherai per bene, così anche per Fabio, e potrai dire la tua su questo, che per certi aspetti è un teatrino della politica, ma insomma è lì che si prendono certo decisioni importanti. Tre grazie secondi solo, Giulia, scusami, su Le Monde, il ponte di Genova, ne parlano anche loro, molto bene. Grazie Giulia, appuntamento domani con Effetto Giorno. Jacopo De Franchi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Ciao da Alessio Maurizi.